Yes yo, aha, SS Mixtape, i figli di Bob siamo noi. Con lo zaino in spalla per andare a scuola, sapessi quanti pullman che ho perso alle 6, quante notti in depressione in cerca di lei, in cerca di un giorno migliore, quanto lo vorrei. Non posso farci niente, sono fatto così, odiavo le ragazzine, sognavo di fare rapine, poi ho chiuso drammi dentro cartine e tutto il resto se n'è andato in fumo. Non devo niente a nessuno, sempre stato un ragazzo normale, a quanto pare non ho nulla da raccontare, ed è per questo che ti racconto della mia vita. Non credo fino in fondo tu l'abbia capita, sempre stato contro l'opinione di queste persone. Sono un figlio di Bob, più che girare le spalle giro un cannone in devozione alla nazione, finché non dimentico tutta ma la pena, ricorda il mio nome. Delle certezze mi fido poco, più che darti fuoco, penso a darle fuoco, e me ne frego sempre meno di quello che pensa la gente, penso sempre meno, in fondo non gli devo niente. A 16 anni con i vuoti di memoria, puntando alla gloria, vivendo di speranze, campando di illusioni che da anni mi porto, e chiedo scusa se ora a malapena vi sopporto, ma i figli di Bob, siamo i figli di Bob, siamo i figli di Bob. I figli di Bob, siamo i figli di Bob, siamo i figli di Bob. I figli di Bob, siamo i figli di Bob, e non cambieremo mai. I figli di Bob, siamo i figli di Bob, e non cambieremo mai. Ti parlo di Bob come se fosse un dio. Ti parlo di Bob come se fosse il padre mio. Ma ti parlo di Bob come persona, non come drogato, ma come cantante da cui ho imparato a non dare spiegazioni, mettendo quello che provi nelle canzoni. Sempre stato fiero di essere quello che sono, io non ho mai dato perdono a nessuno di loro. È un po' di tempo che mi consolo da solo, sbatto la testa sul suolo, pronto a prendere il volo. Ho cambiato strada ed intrecciato percorsi, ma ti garantisco che non ho più rimorsi. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto da me, tutto quello che sono lo devo a me. I figli di Bob, siamo i figli di Bob, siamo i figli di Bob. I figli di Bob, siamo i figli di Bob, siamo i figli di Bob. I figli di Bob, siamo i figli di Bob, e non cambieremo mai. I figli di Bob, siamo i figli di Bob, e non cambieremo mai.